Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Buongiorno cari ascoltatori di Gigi Donelli, ma anche di Alessandro Schirano, di Roberta Frisani in regia. Dunque, siamo all'epilogo di una settimana che, ha partorito giovedì sera un accordo, o meglio un indirizzo di accordo sul quale costruire. Chi ha avuto occasione di sentire questa mattina anche l'Euroreportage, abbiamo raccolto le voci, i commenti, proprio le reazioni, a cominciare ovviamente dal presidente del Consiglio Conte. Le opposizioni, come sempre, sono state spese parole pesanti, drammatiche. Ormai stiamo consumando il vocabolario in un senso e nell'altro. Adesso cerchiamo di fare un po' il punto della situazione con chi a Bruxelles risiede professionalmente da un bel po', il corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, Beda Romano. Beda, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, lontano dalle, o meglio lontano, un po' più lontano dalle polemiche così intense di tutte le ore, anche ieri, quindi venerdì, è stata l'occasione per toni molto infiammati in Parlamento. Le opposizioni, in particolare la Meloni, ha espresso tutto il proprio disappunto, la distanza, la trappola per topi, un'immagine forte comunque, questa idea di un paese che sarebbe l'Italia, che viene spinto pian piano dal sistema europeo verso la trappola per topi. Appunto, questo è stato un po' forse il momento più forte del racconto dell'opposizione, opposizione che a sua volta si è divisa, perché dall'altra parte Tajani, Berlusconi, il centrodestra più classico, diciamo, ha tutto sommato valutato la questione come un passo in avanti. Adesso però vorrei chiedere innanzitutto a te, Beda, cos'è stato un po' il day after in chiave di Bruxelles? Come è stato raccolto quanto raggiunto giovedì sera? Direi positivamente, in parte perché il vertice di giovedì è durato relativamente poco, è cominciato alle 3 del pomeriggio ed è finito alle 8, e di questi tempi 5 ore di vertice sono poche cose, e quindi da quel punto di vista positivamente, in fondo perché non ci si aspettava granché più di quello che è emerso. I 27 si sono messi d'accordo per creare all'interno del prossimo bilancio comunitario un fondo con il quale reagire allo shock economico provocato dalla pandemia influenzale. Di più non è stato deciso, mancano ancora dettagli importanti, per esempio l'ammontare di questo fondo, e anche che tipo di denaro distribuirà. In altre parole, se distribuirà prestiti o invece sovvenzioni, in altre parole denaro che i governi possono utilizzare più liberamente e soprattutto senza dover renderli alla Commissione europea. Però mi sembra che l'accordo sia stato visto positivamente da tutti, perché e in fondo stiamo utilizzando il bilancio comunitario in modo molto più ambizioso, in modo molto più generoso di quanto non sia stato fatto negli ultimi 50 anni. Ecco, Beda, tra prestito e sovvenzione direi che tutti i nostri ascoltatori hanno ben chiara la differenza, no? Perché noi andiamo in banca a ottenere dei prestiti che poi si chiamino mutui o sottoforma, sovvenzione è un'altra cosa, di solito te lo danno i parenti nella vita e poi finisce lì quando sei giovane oppure magari quando sei adulto. Ora la differenza è davvero enorme e non è ancora certo su quale dei due appunto strumenti si va a ricadere. Sì, non si è ancora decisi, probabilmente si troverà un compromesso e si deciderà che questo nuovo fondo, che sarà temporaneo ben inteso, perché deve servire al rilancio economico dopo lo shock economico provocato dalla pandemia, questo fondo probabilmente distribuirà sia sovvenzioni che prestiti. Okay. Adesso io vedo naturalmente la differenza tra sovvenzioni e prestiti. Non ne dubitavo. Ma non sono certo di dover assolutamente considerare più positivamente le sovvenzioni dei prestiti. E forse posso anche spiegarmi meglio. Credo che naturalmente le sovvenzioni possono apparire positivamente, perché è denaro a fondo perduto in un certo senso. I prestiti responsabilizzano di più i paesi che ne sono beneficiari, e la responsabilità può essere utile, può essere positiva, può indurre a scelte più ragionate, più profonde, e quindi anche lì valutare anche da un punto di vista nazionale se è meglio ricevere prestiti o sovvenzioni, credo che faccia parte del dibattito di queste settimane. Allora, può sicuramente il prestito con... Allora, stavo per dire le condizionalità, questa è diventata una delle parole tabù in questo presente, ma appunto con delle regole, che sia messo o meno, è la norma dei rapporti. E quando dici... che appunto l'assenza di regole non genera un comportamento virtuoso, pensiamo all'Italia, soltanto all'Italia o a un discorso più generale di altri paesi europei? Credo che valga per tutti, e vale nella vita come vale nei rapporti intergovernativi. Quando nella vita si riceve un prestito, si useranno i soldi in modo attento e si sa che si ha una certa responsabilità nei confronti del creditore. Chiarissimo. Ecco, Beda, scusa, su questo abbiamo detto, o meglio, hai spiegato che in ogni caso la questione sarà di attingere dal bilancio, ma il bilancio comunitario non c'è ancora. Ecco, allora è doppia in realtà la questione. Si è deciso naturalmente di creare questo fondo all'interno del bilancio e in effetti il bilancio non c'è ancora. Il bilancio attualmente in corso termina alla fine dell'anno ed è un bilancio settennale naturalmente. Quindi i governi devono, oltre a negoziare il fondo, l'ammontare del fondo e l'uso del fondo, devono anche negoziare il quadro nel quale questo fondo vivrà, ed è il bilancio comunitario dei prossimi 7 anni. È tutto da negoziare, perché sappiamo che la proposta fatta dalla Commissione ormai un paio di anni fa è stata discussa in febbraio, naturalmente prima dello scoppio della pandemia influenzale, e in quella circostanza i governi non riuscirono a mettersi d'accordo su questa bozza, e quindi in questo momento manca un accordo sul bilancio nel senso più compiuto. Ecco, ricordiamolo che siamo anche nell'anno dell'uscita, della Brexit, eccetera. Ne abbiamo parlato a lungo, soprattutto Europa, in tutte le trasmissioni. Cioè, il bilancio dell'Unione per sua natura è destinato a ridursi, e allora si deve fino a un certo punto mettere mano al portafoglio degli stati, ed è qui che poi tutti diventano lì sì molto oculati, o sbaglio? Tutti diventano oculati a quel punto, naturalmente, tutti diventano oculati, ed è stato il motivo per cui non è stato trovato un accordo in febbraio, erano talmente oculati che non sono riusciti a mettersi d'accordo. La cosa interessante però in questo momento è che uno dei paesi più ricchi dell'Unione Europea ha spiegato chiaramente questa settimana, è addirittura giovedì davanti al Bundestag, la cancelliera Angela Merkel, che è pronta ad aumentare in modo sostanzioso i contributi nazionali tedeschi nel prossimo bilancio comunitario. Questo vorrà dire che gli altri di conseguenza saranno in qualche modo chiamati, un po' come in un tavolo di poker, a mostrare le proprie carte ma anche le proprie intenzioni? Significa inevitabilmente che tutti dovranno un po' adattare l'ammontare di contributi nazionali che sono pronti a versare nel nuovo bilancio. Insomma, perché noi tutti sappiamo che in un condominio chi paga di più per far funzionare il condominio avrà inevitabilmente un ruolo maggiore nel prendere le decisioni. Se sappiamo che la Germania è pronta a mettere nel prossimo bilancio comunitario più denaro di quanto non sia stata pronta in passato, beh, significa che avrà un ruolo particolare nella gestione del bilancio. E quindi i partner vorranno probabilmente aumentare anche loro il loro contributo in modo da poter rimanere altrettanto importanti nella gestione del bilancio. Due battute per cortesia in conclusione. La prima è: il dibattito sul MES scalda in modo simile o addirittura analogo superiore altri paesi come in Italia? No, assolutamente. Lì la dicotomia tra l'Italia e il resto dell'Europa è netta. Anzi, vi sono paesi che hanno ricevuto aiuto da parte del meccanismo europeo di stabilità in passato e sono pronti a riceverlo nuovamente oggi. Cioè, stai citando la Grecia? No, sto citando la Spagna. La Spagna ha ricevuto aiuto per il proprio sistema bancario negli anni scorsi, ha utilizzato il denaro in modo efficace e efficiente, il suo sistema bancario oggi è molto più sano di altri paesi, di quello di altri paesi europei, e da quanto si capisce dal governo spagnolo potrebbe attingere nuovamente al meccanismo europeo di stabilità. Insomma, non temono lo strumento in quanto tale, che poi appunto utilizzeranno meno, ma quello si starà a vedere. E la Grecia, che in qualche modo viene molto citata, naturalmente Grecia, Troika, sono le parole, no? Sai come ormai siamo abituati, le parole del giorno, le parole della settimana. Come ha vissuto dalla prospettiva di Bruxelles questo dibattito, Atene? Ma in modo molto più tranquillo, mi sembra, da un punto di vista politico. Da un punto di vista economico il paese è estremamente preoccupato, perché questa crisi inevitabilmente sta colpendo tutti, rischia di lasciare delle sequele gravi. I paesi più ricchi e in uno stato migliore se la caveranno meglio, quelli più poveri e in uno stato più fragile se la caveranno peggio. La Grecia è in una situazione particolarmente complicata perché, oltre ad essere in fase di uscita da un lungo periodo di difficoltà economica, è anche un paese che vive di relativamente poche risorse economiche. Il turismo è una delle grandi risorse economiche della Grecia e in questa fase la Grecia è comprensibilmente preoccupata dal prossimo periodo estivo e spera francamente di poter uscire dal confinamento e soprattutto accogliere turisti dal resto dell'Europa. Insomma, se noi temiamo l'estate da questo punto di vista, c'è chi all'interno dell'Europa lo teme ancora di più. Grazie Beda Romano di essere stato con noi oggi, aiutarci un po' a navigare in questa complessità anche con uno sguardo esterno, perché naturalmente, come sempre accade, tutti gli elementi di questo nostro dibattito interno a volte ci soffocano e ci rendono difficile guardare appunto la situazione nel suo complesso. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, grazie di essere stato con noi. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. Europa, Europa. Gigi Donelli al microfono, Alessandro Schirano, Roberta Frisani, benvenuti ancora da tutti noi. Dunque, dopo aver fatto un punto su quello che è accaduto nella settimana, ripartiamo con Silvia Bernardi, torniamo sul tema della fiscalità. La settimana scorsa ce ne siamo occupati parecchi. Nella diatriba, diciamo anche a distanza, molto virulenta, Italia-Olanda, abbiamo pensato di vedere degli elementi, puramente interni, di politica interna dei due paesi, i due primi ministri, storie insomma più locali che collettive. Dall'altra parte però è stata l'occasione per sollevare il problema di nuovo, il problema della fiscalità, cioè il fatto che all'interno dell'Unione Europea, questo non riguarda ovviamente solo l'Olanda, i 27 applicano fiscalità diverse tra di loro, cioè situazioni in cui gli investimenti valgono diversamente a seconda dei luoghi. Vogliamo tornarci e chissà, penso che lo faremo spesso, regolarmente, aspettando che la politica prenda in mano questa questione. Silvia Bernardi. L'Unione Europea ha messo in campo la risposta alla crisi economica da coronavirus con misure che non hanno precedenti. Servirà ancora del tempo per avere tutti i meccanismi finanziari pronti per l'uso, ma il Consiglio dei Ministri ha definito criteri e tempistiche. C'è un aspetto che ancora non è stato trattato e che questa crisi finanziaria sta portando a galla con forza, ovvero la difformità dei sistemi fiscali tra i diversi paesi europei, uno dei punti deboli della politica monetaria europea. Ne parliamo con Carlo Altomonte, professore di integrazione dell'economia europea all'Università Bocconi di Milano. Professore, buongiorno. Ci sono in Europa paesi che quando fa comodo a loro adottano le regole comunitarie e quando servirebbe agli altri vanno per la propria strada. Partiamo dal caso Olanda. Ma intanto l'Olanda ribatte all'Italia che lei versa molto meno di IVA di quanto dovrebbe, perché c'è una grossa evasione nel paese, quindi insomma a botte di accuse non andiamo molto lontano. Però partiamo dall'accordo raggiunto nell'Eurogruppo. Abbiamo deciso di usare almeno tre strumenti per far fronte alla crisi Covid: il sussidio europeo di disoccupazione che vale 100 miliardi, le garanzie BEI che ne attivano 200 in prestiti alle imprese e poi il famoso MES. Questo MES avviene in due facce: una faccia con prestiti a 2 anni che non prevede condizionalità ma che è legata alle spese sanitarie dirette e indirette, e una faccia aggiuntiva che è quella sulla quale poi l'Italia ha dovuto comunque cedere, questo dobbiamo dirlo, perché invece prevede una condizionalità che a certe condizioni può essere non molto dura, ma che comunque esiste. Questo dobbiamo dirlo molto chiaramente. In cambio di questo accordo sul MES, però, si è messo nero su bianco che una quarta risorsa comunitaria per far fronte alla crisi del coronavirus è quella legata a questo Recovery Fund, che è uno strumento da inserire dentro il bilancio europeo che potrebbe valere 500 miliardi di euro, quindi diciamo la soluzione definitiva a tanta parte dei nostri problemi. L'emergenza ora è sanitaria, ma la crisi è economica e il problema più che finanziario è fiscale, e su questo tema l'Europa non è uniforme. Se vogliamo, questo è un po' il peccato originale dell'area euro: abbiamo creato una moneta unica e non abbiamo armonizzato, coordinato in maniera stretta le politiche fiscali, quindi oggi sia durante la crisi finanziaria del 2008-2009 o quella poi del debito, sia oggi ci troviamo a scontrarci con questo tipo di problema. Oggi a maggior ragione, perché la natura della crisi di oggi è molto più fiscale che finanziaria. Tuttavia il dibattito di questi giorni su questo Recovery Fund fa ben sperare, nel senso che le cancellerie sono abbastanza disponibili a lavorare ad allargare finalmente il bilancio europeo, finanziandolo con dei contributi da parte degli Stati membri, ovviamente a lunghissima scadenza. Quindi l'idea è che ognuno versi una piccola quota al bilancio europeo aggiuntiva per 30 anni, e però questi soldi vengono anticipati subito grazie all'emissione di debito europeo da parte delle istituzioni comunitarie. Questo è importante perché tecnicamente queste emissioni sarebbero debito europeo, non sarebbero debito nazionale, quindi contrariamente ai fondi MES o ai fondi del meccanismo europeo di disoccupazione, che sono prestiti, non farebbero aumentare il rapporto debito-PIL. Ovviamente bisogna mettersi d'accordo su quali sono queste risorse che gli Stati versano al bilancio comunitario, e quindi si parte sul tema di come armonizzare per esempio una parte dell'IVA, o un'altra possibilità che è stata in qualche modo paventata, che è già sul tavolo ma che fino ad oggi non ha trovato il consenso degli Stati membri, è quella di lavorare su meccanismi comuni di tassazione delle imprese multinazionali che eludono le tasse, come sappiamo, dentro l'area euro, e qui ovviamente l'Olanda non è molto d'accordo visto che beneficia di tutto ciò, ma se si trovasse un accordo in questo senso, questo varrebbe circa 20 miliardi di euro al bilancio comunitario, moltiplicati per 30 anni, stiamo immaginando questo orizzonte, sono 600 miliardi di euro disponibili immediatamente per gli Stati membri. Usare ora il bilancio europeo per tutti gli Stati europei li mette sullo stesso piano? Queste risorse dovrebbero essere spese secondo dei piani molto ben articolati, quindi un po' una specie di superfondo strutturale che a livello nazionale, con dei piani concordati con Bruxelles, ci dice come spendere questi soldi, come orientarli per investimenti, infrastrutture, ricostruzione. E secondo me a noi farebbe un gran favore perché ci obbliga a una pianificazione e a una semplificazione normativa che forse altrimenti non saremmo in grado di fare. Silvia Bernardi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Grazie dunque a Silvia Bernardi, al nostro ospite, e adesso parliamo invece di aria, di ambiente. Anche questo è un tema abbastanza ricorrente in questo periodo, che viene sollevato per una riflessione. C'è una relazione tra particelle, inquinamento PM10, PM5 e diffusione, in questo caso del Covid-19, ma insomma dei virus in generale. È una questione non ancora chiarita fino in fondo dalla scienza, ma che fa i conti con una serie di evidenze che riguardano anche i luoghi dove appunto il virus picchia più duro. Allora, Cristina Carpinelli ne ha parlato con Alessandro Miani, dunque, che torna in questa trasmissione, presidente della Società di Medicina Ambientale, convinto che ora occorrono misure più stringenti, più dure per affrontare questa emergenza anche in termini di qualità dell'aria e dell'aria che avremo in futuro. Sentiamolo. Professor Miani, circa un mese fa la conferma che il particolato atmosferico accelererebbe la diffusione dell'infezione di Covid-19. Ora una nuova scoperta che annuncia che il coronavirus sarebbe stato ritrovato proprio sul particolato atmosferico delle nostre città. Allora, la prima domanda che le faccio è se ci parla proprio di questo studio che avete condotto. Quanto abbiamo scoperto con questa ricerca è relativa alla presenza dell'RNA virale del SARS-CoV-2, ossia di quello che noi meglio conosciamo come Covid-19, sul particolato atmosferico nella provincia di Bergamo, grazie a due campionatori ad alto volume che sono stati utilizzati e alle analisi PCR condotte sul particolato raccolto presso l'Università di Trieste, in parallelo anche con l'azienda ospedaliera di Trieste. Questo tipo di evidenza ci porta a poter confermare la presenza appunto del coronavirus sul particolato. Ovviamente in certe condizioni di stabilità atmosferica e condizioni climatiche, significa temperatura ed tasso di umidità relativa. Che conseguenze potrebbe avere questa vostra scoperta? Questa scoperta ci può condurre ad utilizzare il particolato come indicatore di eventuali recidive, o le analisi del particolato come indicatore di eventuali recidive dell'epidemia da Covid-19. È uno strumento che può essere utilizzato dal decisore per monitorare appunto, come dicevo prima, l'aria ambiente delle città e anche dei siti industriali, e sulla base del ritrovamento o meno attraverso l'utilizzo di centraline o campionatori d'aria e i successivi esami PCR laboratorio che possono stabilire la presenza o meno del virus o comunque dell'RNA virale sul particolato, può essere appunto un indicatore che può fare da discriminante tra un'area, chiamiamola Covid-free, e un'area invece in cui si possono fare una sorta di approfondimenti di tipo epidemiologico e di sorveglianza sanitaria attraverso quelli che sono test sierologici, tamponi, test rapidi, per capire cosa c'è che non va. Ecco. Avere ritrovato l'RNA virale sul particolato ci induce anche a suggerire al decisore di rendere obbligatorie le mascherine per tutta la popolazione. Grazie anche a Cristina Carpinelli e Alessandro Miani. È tutto per questa trasmissione. Naturalmente GR24, ora con tutti gli aggiornamenti dalla cronaca con Europa Europa. Ci risentiamo sabato prossimo. Un saluto.